Capitolo 5. Il racconto di Gabriela. Sono Gabriela, figlia di Ischel, sciamana del suono, delle parole e madre di tutti i bimbi poveri. L'umanità mi accusò e continua a farlo di aver scritto versi pieni di sofferenza, sebbene fossi diventata celebre e avessi ricevuto riconoscimenti. Ma la mia sofferenza non era mia. Avevo superato i miei patimenti personali. Però seguitavo a soffrire per la disparità di trattamento nei confronti delle donne, dei bimbi malnutriti nel corpo e nell'anima, della razza meticcia nata da stupri. E soffrivo per la madre terra calpestata da carri e stivali di guerra. Il mio successo non contava nulla di fronte al continuo abuso che vedevo e che ancora vedo nel mondo duale. Sistematicamente agito davanti ai miei occhi nei confronti di tutto ciò che è femminile. Come voi, sorelle, viaggiai e dedicai la mia vita a educare le genti, a comprendere i bimbi, a servire la grande madre. Anche a me, come a te, sorella Hildegard, fu tolto l'amore di un figlio non mio, Gin Gin, che amai come se fosse uscito dal mio proprio ventre. Questo è il prezzo che le donne pagano per un istante di grandezza nel mondo degli uomini, ma non voglio anticipare. Da maestra autodidatta e senza diplomi, sono diventata una educatrice riconosciuta nel mondo. Come te, sorella Sabina, ho avuto la più difficile delle partenze. Bimba meticcia e povera, con caratteristiche fisiche indigene, abbandonata 3 anni dal padre e senza istruzione. Gli unici 4 anni di scuola che frequentai sistematicamente furono quelli in cui mia sorella mi conduceva con sé, a cavallo, nel paese dove esercitava il mestiere di maestra elementare rurale. Furono le sue lezioni che mi portarono sulla via dell'insegnamento e della considerazione per le classi più deboli. Ho vissuto in mezzo alle donne. La mia infanzia fu piena d'amore, se non di mezzi. Mia madre, mia nonna, mia sorella ed io condividevamo una casetta di fango di 2 stanze. Fu mia madre, Petronilla, che amai così tanto a insegnarmi la generosità. Mi mandava a prendere la frutta negli orti di chi ne aveva tanta per portarla sulle tavole di chi non ne aveva. Nulla di ciò transitava da casa nostra. Ero il corriere del cibo per i poveri. E fu sempre mia madre che, nello spedirmi a far visita a mia nonna matta, la quale mi faceva leggere ad alta voce il cantico dei cantici dopo avermi sciolto i capelli, fece sì che io mi salvassi dalla zuccherosa, altisonante, fatua poesia allora in voga e creassi fin da piccola i miei componimenti in un mio stile semplice, sobrio e campagnolo. La ricchezza che trassi da questi primi anni fu quella della terra stessa, poiché nacqui nella valle del fiume Elchi, il cammino delle stelle lo chiamano, dove mia madre e tutte le sue antenate avevano vissuto all'ombra delle Ande fin da prima dell'avvento degli spagnoli. Era una terra generosa, che produceva frutti in abbondanza, e grazie a lei non patimmo mai la fame, nonostante fossimo povere. Quella era stata la terra nativa di un popolo fortemente connesso alla mia amata cordigliera. Perfino le loro ceramiche, ritrovate nei siti più antichi, avevano i colori delle montagne. Gli invasori Inca diedero loro il nome di Diaghita, ma loro si definivano dal nome del loro linguaggio, Cacan. La scuola di Montegrande, dove insegnava mia sorella Emelina, mi permise di essere sempre a contatto col fiume, con la montagna, con gli alberi e i loro spiriti guardiani. Non feci mai amicizia con le bambine mie coetanee, io vedevo altro e mi nutrivo dell'amore per la natura. Ero diversa, conoscevo le erbe, i rimedi e amavo la terra. Nel mio piccolo giardino passavo ore e ore guardando gli uccelli e i fiori, come te, sorella Hildegard. Smisi presto di sentirmi cilena e cominciai a definire me stessa nativa americana. A 13 anni scrissi i miei primi poemi. Appena 14enne divenni aiutante in una scuola rurale e subito dopo Tre mie poesie furono selezionate per un'antologia locale. Indubbiamente la grande madre aveva un progetto molto chiaro per me, giacché io, figlia del campo, senza mezzi né relazioni, ebbi protettrici e protettori potenti che decretarono la mia ascesa. Fin da subito, ha scritto qualcuno dopo la mia dipartita, la gente di ogni ceto restava affascinata dalla mia maestà semplice e quasi religiosa. Nei 10 anni successivi le mie poesie vennero pubblicate su riviste e fecero di me Gabriela Mistral. Fui io stessa a scegliere il nome con cui mi presentai al mondo, un nome che rendeva omaggio ai miei poeti preferiti. Nessuno meglio di me comprende l'importanza di scegliere il proprio nome per creare una identità consapevole. Nei clan nativi era la sciamana che dava il nome alle creature dopo il rito di passaggio e il nome veniva formulato in base ai presagi ricevuti. Il nome è un vestito, è una missione, è una casa. Non può essere scelto in modo superficiale o conformista e soprattutto la dea ci salvi dai nomi dati in omaggio agli antenati morti che condannano i vivi a ripercorrerne i passi. Uniformare i nomi è appiattire e impoverire l'umanità. Con la scuola ebbi sempre un rapporto violento. Tanto amavo poter insegnare, tanto le scuole cilene mi rifiutavano. Da bambina ero talmente timida che non fui accettata nella classe primaria, poiché la maestra sosteneva che non ero abbastanza intelligente, anzi, che ero ritardata. Poi fui accusata ingiustamente di aver rubato dei quaderni e ricevetti un'umiliazione cocente che segnò per sempre la mia esistenza nel mondo. La banda dei compagni e compagne mi seguì fino a casa, lanciandomi pietre e chiamandomi ladra, ladra. Riuscii ad arrivare a casa, ferita nel corpo e nell'anima, e persi i sensi. Più avanti negli anni, fu il curato dell'istituto in cui chiesi l'ammissione per diventare maestra a rifiutarmela, poiché le mie poesie gli erano sembrate pagane, atee, socialiste, troppo popolari. Ma la Chiesa mi aveva già inquisita e giudicata colpevole all'uscita di un mio scritto sull'istruzione alle donne, poiché appena 17enne avevo scritto che la donna istruita smette di essere una fanatica ridicola, una sposa monotona che per mantenere l'amore coniugale non può contare su altro che sulla sua bellezza fisica. Nei miei articoli sul foglio locale avevo difeso la riforma agraria, l'istruzione obbligatoria, l'uguaglianza di salario tra l'uomo e la donna. Avevo scritto che istruire la donna la rende degna, la solleva dalla umiliante vita domestica, dall'essere vittima di ripugnanti matrimoni combinati e dalla vendita del suo onore. Questo scrissi molto prima che fosse creata la parola femminismo. Allora le donne del popolo erano considerate solo come forza lavoro al pari del bestiame. Per me il socialismo era un'identità filosofica e una scelta di vita, quasi una religione. Non aveva nulla a che fare con i movimenti politici di tronfi, palloni gonfiati, pieni di spocchi e di parole al vento che passavano il tempo discutendo e teorizzando. Io ero concreta, io agivo e ottenevo risultati. Sperimentai il razzismo sulla mia pelle da parte dei miei stessi compatrioti, così lontani e sordi alla voce della grande madre che io incarnavo con tutta la mia forza e la mia passione. Avevo abbandonato il mio villaggio per immergermi nella più profonda realtà della mia terra e divenire la paladina dei diritti dei popoli nativi, non del solo Cile, ma di tutta l'America. Le battaglie che portai a termine, conseguire l'educazione pubblica e obbligatoria per le bambine e i bambini e il riconoscimento dei diritti delle donne furono ciò che mi tenne in vita, insieme alla poesia e alle sigarette. Scrivevo su una tavoletta di legno che appoggiavo sulle ginocchia. Una scrivania mi sembrava troppo da signora e io ero una patiloca, troppo nomade anche solo per possedere una scrivania. Ero sempre in viaggio, anche durante i miei periodi stanziali io avevo la valigia pronta. Ho sempre vissuto come una del popolo, fino all'apice della mia celebrità, quando mi definirono docente, femminista, visionaria e cuore del Cile. Praticai una pedagogia naturale, che fu azione, ma anche poesia, che poneva al centro i diritti dell'infanzia e la loro relazione con l'ambiente e la natura. L'apprendimento delle bambine e dei bambini doveva passare attraverso la natura e il campo affinché non rinegassero la loro origine indigena e contadina. In un tempo in cui né donne né nativi avevano voce, io lottai per dare loro la mia. Ispirai fortemente il presidente che rese obbligatoria l'istruzione primaria nel mio paese, ma agli occhi della classe dominante cilena io rimasi una maestra rurale, senza diploma, e questo mi attirò sempre il suo disprezzo. Erano le maestre tedesche, con le loro pelli bianche come i loro frutti pallidi, cresciuti in una terra senza sole, le uniche ad avere diritto a istruire l'infanzia in Cile. Ma i loro occhi cerulei non guardavano alle creature come a esseri umani con dei diritti in cui suscitare amore per la lettura e lo studio, solo insegnavano loro la sottomissione ai bianchi e ai proprietari terrieri e minerari. Perdonami, sorella Hildegard. Ciò nonostante, io divenni insegnante. Ancora ragazzina insegnavo a leggere ai lavoratori, poi divenni insegnante nelle scuole femminili, poi preside del liceo di Punta Arenas, nel Sur Grande de Cile, e poi nel Sur Chico, a Temuco, in Araucania, dove venni a contatto col popolo Mapuche e mi appassionai alla sua resistenza contro ogni invasore, e dove conobbi il giovane Neftalí Reyes, di cui compresi e incoraggiai il talento. Gli feci conoscere i grandi narratori russi, che tanta influenza ebbero su di lui, trasformandolo in un poeta militante, socialista, sebbene si sia circondato di lussi e mollezze. Grazie a me divenne noto al mondo come Pablo Neruda. Come te, sorella Sabina, ispirai un uomo che è stato riconosciuto come uno dei maestri dell'umanità. Ma nessun maestro può nascere in altro luogo che da un ventre di donna, che lo si riconosca o meno. Nella mia biblioteca personale c'erano Tagore, Steiner, la Divina Commedia, il Rosacroce, il Buddismo, la Teosofia e le opere di Alice Bailey, una Bibbia integrale e i sonetti di Shakespeare ed Annunzio. In quella terra araucana, coloro che avevano un cappello se lo levavano al mio passaggio, dicevano che era come toglierselo di fronte alle Ande stesse. Ma fu un popolo che stava facendo la rivoluzione, il Messico, a togliermi dalla incomprensione dei cileni e dalla gelida umidità della Patagonia, poiché anche io fui sempre una rivoluzionaria. Alla particolare età di 33 anni, fui invitata dal ministro dell'istruzione messicano a stabilirmi nel suo paese per alfabetizzare l'enorme massa contadina indigena messicana. Mentre mi lasciavo la mia terra alle spalle, potevo sentire i miei detrattori ridere di me, umiliarmi e profetizzare che sarei tornata indietro molto presto e con la coda tra le gambe. Invece, non tornai in Cile finché ormai celebre mi implorarono. Quella ribelle terra messicana che mi aveva accolta con affetto all'estremo opposto del continente mi permise di dispiegare tutto il mio potenziale come educatrice e pubblicare il mio primo libro. Viaggiai su carretti, su pullman e a piedi in tutte le campagne per conoscere le realtà rurali fino alle zone più lontane e isolate. Creai biblioteche rurali, dove tutta la popolazione contadina potesse andare a nutrire il suo spirito quando non era impegnata a coltivare il campo. E feci stampare il primo libro di lettura per donne, contenente solo opere latinoamericane. Grazie, Messico coraggioso, solo tu sangue caliente poteva permettermi un tale scandalo. Fu lì che potei provare ciò che da sempre sapevo. Il popolo indigeno americano non era affatto incapace intellettualmente. Al contrario, potei osservare la sua creatività geniale e innovativa per l'artigianato, il disegno e la pittura e la sua insopprimibile voglia di scrivere, leggere, declamare, danzare e cantare. Sanai decenni di analfabetismo, ma pretesi che al popolo venisse insegnata la letteratura e la poesia della sua terra, l'orgoglio e la libertà piegati da secoli di colonialismo. Volli che imparassero a sentirsi americani, dalla terra del fuoco al Messico, non più sudditi dell'Europa. L'America del Sud unita in un'unica razza meticcia, unificata dall'idioma del conquistatore spagnolo e dal dolore comune per le sistematiche rapine dell'altra America, quella del Nord. 30 anni prima di Che Guevara ebbi io la visione del continente unito. Tuttavia, mi risultò sempre difficile far comprendere alle donne che potevano pretendere emancipazione e indipendenza senza rinunciare alla loro femminilità, alla maternità e ad avere una casa. L'emancipazione per me non era lasciare la casa, indossare i pantaloni e fare lavori da uomini, ma era un sottile stato dell'anima che porta la donna al risveglio quando, attraverso lo studio e la conoscenza, ricorda di incarnare la grande madre e risveglia quel ruolo sacerdotale che la sua memoria cellulare porta impresso fin dai tempi delle madri dei clan. Le attiviste messicane mi accusavano di non essere chiara nei miei discorsi a favore delle donne, poiché sempre parlavo di bambini e di maternità. Ma come si può essere donne negando il proprio utero? Come si può rinunciare a essere madri, sebbene non si partoriscano figli dal proprio ventre? Tutte voi, sorelle mie, siete state madri di migliaia di figli, lo sapete bene. È l'utero che ci rende madri, non le gravidanze. Come te, sorella Hildegard, ebbi protettori potenti. Sempre mi aiutarono le donne, sorelle del corpo e dell'anima. A Laura, dolce e determinata, devo il riconoscimento della mia poesia. A Palma, la dedizione e l'amicizia che mi accompagnarono fino alla fine del mio pellegrinaggio intorno al mondo e che mi fu accanto quando Gin Gin, il figlio del mio cuore, mi lasciò nel modo più orribile che una donna possa sopportare. A Victoria, la pubblicazione della mia dichiarazione di nativa americana. A Doris, devo il calore e il sostegno dei miei ultimi anni, quando pensavo che non avrei più potuto avere vicino nessuno da amare. Vasconcelos aveva detto di me che ero lo splendore vivo che svela all'anima i suoi segreti e ai popoli il loro destino. Dopo il Messico viaggiai in Europa e fu in Francia che ricevetti il dono di quel figlio, quantunque non partorito da me. Il mio fratellastro, rimasto vedovo, mi affidò il bebè di cui non potevo occuparsi, il mio amato Gin Gin. Fu così che divenni madre di un dolce bambino che viaggiò con Palma e con me. Questa fu la sua condanna, poiché non poté radicarsi in nessun luogo a causa di una madre zia nomade per necessità. Io lo amavo e lo istruivo, ma era Palma la madre dei suoi bisogni di bambino, colei che lo nutriva, lo cambiava, lo curava quando si ammalava. Io avevo una missione: educare i figli di tutto il mondo. Occuparmi di un solo figlio non era ciò che la grande madre voleva da me. In Francia ci conoscemmo in quella vita, sorella Marie Curie, e fummo sorelle anche nella carne. Dopo fui in Italia, dove mi dichiarai antifascista e dovetti scappare, poi in Spagna, dove al colmo dell'indignazione per la pretesa del regime, che la miglior cosa capitata ai nativi americani fosse la conquista spagnola, scrissi una lettera denunciando tutte le carenze che vedevo in quel paese, la mancanza di istruzione, di medicine, gli stessi mali che affliggevano la mia terra. Fui tradita. La lettera fu pubblicata e io dovetti di nuovo fuggire in Portogallo. Ma in quella nuova terra che mi accoglieva trovai solidarietà. Un congresso di scrittori fece una petizione al governo del Cile, il quale stabilì per me, come console, un vitalizio per la prima volta dato a una donna e il permesso di scegliere la mia residenza. Così scelsi di tornare in America, questa volta in Brasile, dove il caldo sole di Petropolis finalmente mi scaldava. Grazie a ciò, per un po' non ebbi più la preoccupazione delle entrate mensili e potei continuare a occuparmi dell'educazione dell'infanzia che, come per te, sorella Sabina, Spielrein, era la missione della mia vita. Il coniugare l'apprendimento con la natura, i libri con il campo, la lezione messianica con le altre vie spirituali e con la tenerezza e l'accompagnamento nella crescita era per me la via da percorrere, la mia ragione di vita e di risveglio nel corpo vivo. L'istruzione deve essere data ad aula aperta, restando in contatto con l'ambiente in cui si vive. Non una educazione teorica, dunque, ma concreta e utile nella vita di tutti i giorni. Non ho mai compreso perché la creatività, che è il primo e più naturale istinto nei bambini, viene considerata inutile dai genitori e dai maestri di scuola e viene combattuta. Quando ricevetti la pensione, decisi di comprare una grande casa a La Serena, nella mia amata Valle dell'Elchi. Volevo creare una scuola agricola per i bambini e i giovani elchini che non avevano educazione né futuro, ma la grande madre aveva altri progetti per me, sebbene i bambini e le donne rimanessero sempre nel mio cuore al primo posto. Il Cile fu sempre l'ultimo ad accorgersi di me, perlomeno il Cile che contava. I riconoscimenti sempre mi giunsero prima all'estero. Al Cile solo interessava fare pettegolezzi sulla mia vita sessuale, che invece era inesistente, poiché io vivevo per espletare la mia missione di educatrice e di riformatrice. Il Cile, che mi premiò 6 anni dopo il resto del mondo, quando vinsi il Nobel, per me era duplice. Uno era quello degli intellettuali che mi avevano ferita, rifiutata ed espulsa. L'altro, quello della mia gente del campo, degli indigeni, delle ande mistiche e della terra scura che amavo con tutta me stessa fino a portare con me ovunque andassi un po' di terra di Monte Grande in una scatola. L'autorità di cui godetti come console mi permise di unire tutti i consolati americani nell'opera di solidarietà per far fuggire dalla Spagna intellettuali e scrittori perseguitati dal dittatore Franco. Sfruttai al massimo il dono che la grande madre mi aveva concesso di riuscire a comunicare con ogni ceto sociale e di riuscire ad affascinarlo. Parlavo coi contadini e con gli intellettuali, con gli attivisti politici e coi professori. Io mi alzavo e parlavo, sostenuta dalla mia passione, dalla mia fede e dalla sicurezza che lei illuminava il mio cammino. Ho cantato la maternità senza averne mai fatto esperienza diretta, come te, sorella Hildegard. Le donne sono tutte collegate attraverso l'utero, che forma e trasmette una memoria collettiva. L'esperienza di una di noi diventa esperienza anche di tutte le altre. Siamo le operatrici della condivisione, istintiva, necessaria, benefica, nutriente. Il mio appoggio alla condizione delle donne si faceva sentire nelle sfere alte di nazioni latine ed europee. Quando il voto alle donne fu negato in Francia, io intervenni pesantemente. Socialisti radicali si riempivano la bocca con la parola uguaglianza tra i sessi, ma poi, alla resa dei conti, preferivano non inimicarsi la stampa. In Italia non potei nemmeno cominciare il mio lavoro come console, poiché mi dichiarai antifascista e dovetti scappare. E quando il voto alle donne fu autorizzato in Cile, scrissi che ci avevano concesso un diritto che avrebbe dovuto essere nostro da sempre e che le donne dovevano anche presentarsi come candidate, non solo come votanti. Se le donne avessero usato il suffragio solo per votare gli uomini, nulla sarebbe cambiato e le donne avrebbero continuato a essere relegate in ruoli angusti e umilianti. Scrissi che le donne avrebbero governato la patria come una grande casa, per se stesse e i loro figli e nipoti, accanto agli uomini. Il senso dell'economia, scrissi, appartiene alle donne che partono dalla terra e arrivano a metter tavola in modo semplice, concreto ed efficace, senza perdersi in discussioni ideologiche inutili. Questa memoria cellulare del tempo delle madri dei clan era in me molto forte. Mi opposi anche alla corrente educativa scientifista e positivista che si andava delineando. Fui sempre fermamente convinta che l'educazione non può essere costruita a tavolino con teorie e dogmi uguali per tutti, ma deve tener conto della realtà sociale e delle esigenze biologiche ed economiche del popolo da educare. Consideravo educazione l'azione di insegnare alla mia gente a dare il meglio di sé e ad essere felice creando abbondanza e soddisfazione nella sua propria tradizione, non a memorizzare nozioni di culture distanti, anni luce dalla loro. Ero assolutamente convinta che le radici andassero preservate, riconosciute e onorate. Le mie poesie erano filastrocche create coi suoni della terra e dell'idioma della mia gente, dei bambini del campo. Dare il nome alle cose come se le si vedesse per la prima volta. Questa è l'arte dei mistici e dei poeti primitivi. È questo il segreto della creazione, poiché dando nome alle cose si infonde loro la vita. Questa era la mia poesia, un atto alchemico di creazione attraverso il suono. Sì, ebbi un intento alchemico nel comporre versi. Davo un nome nuovo alle cose, alla materia. La ribattezzavo e la purificavo della lordura di cui le guerre degli uomini l'avevano imbrattata. Il fuoco, la cenere, la sabbia, la pietra, il pane, il sale, l'acqua, il cristallo, l'olio, la farina, che definii con piedi di cotone e gravida, così pura leggera che avrebbe potuto cadere sopra un bimbo nudo, senza svegliarlo. Le materie primordiali che vengono direttamente dal ventre della grande madre. Anche se la chiamavo Dio, dentro di me sentivo la continua presenza della madre, ogni volta che aprivo gli occhi e guardavo il mondo, i suoi figli. E comunque mi tacciarono di ateismo, nonostante usassi la loro parola preferita, quel Dio che sicuramente invocavano a vanvera, senza idea di che cosa stessero facendo. Mi hanno definita cristiana, ma nel riconoscere il corpo della madre intorno a me, io vedevo la creazione e la cantavo, mentre chi mi ha definita pagana e atea ha avuto ragione. Dagli uomini ho ricevuto solo dolore. Come potevo lasciarmi incastrare nel patriarcato senza rendermi conto del gioco dei miei compatrioti che, una volta defunta e quindi inoffensiva, mi stamparono sui biglietti da 5.000 pesos? Mi hanno trasformata in cristiana per la loro decenza. Come rappresentante del Cile presso le Nazioni Unite, tornai nella mia terra, solo alla fine della mia vita, oltre a sessantenne, per ripercorrere i miei stessi passi. Avevo promesso a mia madre che la patiloca sarebbe tornata, e così feci. Mi acclamavano ovunque. Al giungere della mia nave a Valparaiso, un mare di bambini nella piazza recitava i miei cantos de cuna. Era successo anche quando avevo lasciato il Messico la prima volta, 4.000 bambini riuniti nel parco Chalputepec per salutarmi cantando le mie rondas. Ma io non ero interessata ai riconoscimenti e agli eventi mondani dell'elite. Io volevo percorrere la mia terra, tornare alle Ande, respirare la natura da cui ero nata e che avevo evocato per 30 anni solo nei miei sogni e accarezzato al mio risveglio in quei pochi pugni di terra andina che mi portavo appresso nella scatoletta in valigia. Non mi fermai. Non ero nata per fermarmi in quella vita. Come voi, sorelle Brigitte e Hildegard, avevo viaggiato e dedicato la mia esistenza a risvegliare i popoli e infine ero ascoltata. Tuttavia, rimasi la stessa rude donna del campo, la stessa antipatica, senza affettazioni, fedele a se stessa. Mi ripudiava anche solo il minimo autocompiacimento. Di fronte agli onori mantenevo un atteggiamento schietto. Invitavo i miei ospiti accanto al fuoco a conversare, bevendo mate bollente, come si faceva nelle case andine e come avevo visto fare a mia madre. Non ho mai temuto la morte, anzi, mi sono sempre sentita anziana. Già a 30 anni sentivo come se il mio corpo dovesse pagare in dolore tutte le violenze subite dalla mia gente. Avevo ribattezzato la morte la contramadre, l'altra madre. La dea nel suo aspetto rigenerativo che ci accoglie nel suo ventre dopo aver abbandonato il nostro corpo per rigenerarci. E volli che le mie spoglie fossero riportate a Monte Grande, nella mia amata Valle dell'Elchi, perché in quella terra andina volevo essere ripartorita accanto al mio amato Gingin. Nel corpo di Gabriela ebbi gli occhi verdi come il campo da cui ero nata, ma dopo aver lasciato il corpo anch'io, come voi, caddi nell'oblio, poiché il mondo degli uomini non ha interesse a ricordare le donne che contrastano i loro giochi di potere con il semplice buonsenso. I proventi dei miei libri, che avevo lasciato ai figli poveri di Montegrande, furono con imbrogli trattenuti nelle casse degli editori, e nessun bambino ricevette mai nulla. Così io, Gabriela, figlia di Ischel, poeta della maternità, della sofferenza e della morte, alchimista delle parole, nativa pagana e paladina delle donne e dei loro figli, in questo sacro cerchio ho parlato. Nel silenzio profondo che si andava facendo sempre più vivo ad ogni racconto, in omaggio alla grandezza delle donne sedute in cerchio, Gabriella riattizzò il sacro fuoco gettandovi dei nuovi ciocchi e alzò gli occhi verso Marie, compagna di lotta e di ingiustizia nello stesso tratto di spazio-tempo, e con lo sguardo la invitò a parlare. Così Marie, la piccola donna paziente e seria, si alzò e accettò di condividere la sua storia, ma prima pretese, da quella pragmatica che era, che le sorelle mangiassero un po' di zuppa. Era ormai notte fonda e i loro stomaci erano vuoti. Fu lei stessa a passare con il calderone e il mestolo e ciascuna ebbe la sua ciotola riempita di fumante minestra, di funghi, patate e cipollotti selvatici. Nel magico silenzio della foresta, dopo tante parole, si udivano solo gli uccelli notturni, il vento tra le foglie e lo scoppiettio della legna che bruciava. Mangiato che ebbero e ristoratesi, la piccola Marie si alzò.